Letture di Radio 24. Che significa oggi parlare di letteratura latinoamericana? Ha ancora un senso cercare di individuare un'identità comune tra le varie realtà che compongono l'universo sudamericano, dove gli scrittori sono sempre più nomadi e cosmopoliti? È la domanda che si pone Bruno Arpaia, commentando per il domenicale del Sole 24 Ore un articolo dello scrittore messicano Jorge Volpi. Jorge Volpi, l'autore di In cerca di Klingsor e di Non sarà la Terra, l'aveva già scritto in un bellissimo saggio intitolato Il miraggio dell'America Latina. Siamo radicali, la letteratura latinoamericana non esiste più, aveva detto. Ma adesso, sul suo blog, è tornato sullo stesso argomento con un articolo composto da più di 100 aforismi, quasi tweet, in cui smonta, concettualmente e storicamente, l'idea attuale di America Latina e di letteratura latinoamericana. La prima, secondo Volpi, ormai esiste solo nella misura in cui si organizzano congressi letterali, sociali, politici e artistici, mai scientifici, sull'America Latina. Oppure si conserva solo nelle guide turistiche e nella nostalgia occidentale. I suoi diversi paesi quasi non si conoscono tra loro e le loro società sono diventate sempre più aperte e plurali. Parole sante, che mirano al cuore della pigrizia di noi europei, perché trattandosi di un continente fin troppo rigoglioso, dove fioriscono grandi contraddizioni e diversità, è più facile ricorrere ai luoghi comuni piuttosto che capirlo davvero. È più facile fare dell'esotismo e accomunare ciò che è diverso. E invece, tra il Rio Bravo e Capo Horn, per migliaia e migliaia di chilometri, si estendono selve, deserti, montagne, vulcani, pianure sterminate, ma anche alcune delle più grandi conurbazioni e megalopoli del pianeta. Invece, fra Tijuana e Ushuaia, ogni regione ha una storia a sé, e vi si parlano decine e decine di lingue, oltre allo spagnolo e al portoghese, per cui perfino la definizione di America Latina diventa problematica. E allora la letteratura latinoamericana? Beh, risaliamo per un attimo all'idea ormai comunemente accettata delle letterature nazionali, con particolarità uniche e irripetibili, proprie di ogni paese. Gratta gratta, si scopre che quelle letterature sono un'invenzione ottocentesca, parte di quel processo di formazione degli stati nazionali che Hobsbawm ha definito l'invenzione della tradizione. Prima di allora, infatti, nessuno aveva mai considerato la letteratura come un bene particolare, proprietà privata di uno o di vari paesi. C'era la letteratura, punto. Fu per questo che i libri degli autori del boom, da García Márquez a Fuentes, da Cortázar a Vargas Llosa, all'inizio furono accolti dai critici locali come veri e propri schiaffoni, perché volgevano le spalle al nazionalismo ufficiale e cercavano, neppure intenzionalmente, di creare una letteratura per così dire bolivariana, continentale. Insomma, latinoamericana, e non messicana, peruviana, colombiana e via di questo passo. Era l'epoca in cui l'America Latina, almeno quella America Latina, esistette davvero. Un periodo che Volpi fa andare più o meno dal 1959 al 1989, quando risultava facile definirla. Una regione dominata da dittatori, guerriglieri, calciatori, musica latinoamericana e dalla retorica del realismo magico. Già, il realismo magico, altro enorme abbaglio di noi europei e nordamericani, perché a noi, ansiosi di situare in un qualunque altrove le nostre utopie non realizzate, piaceva di più l'immagine di un'America Latina esotica, magica, tanto vicina alle origini da confondere mito e storia, l'immagine di un mondo selvaggio e innocente, come il primo giorno della creazione. Così abbiamo addomesticato l'alterità del nuovo continente e l'abbiamo trasformato in un mondo di inoffensivi sognatori, a spasso tra prodigi, banani e mangrovie. Trasformato in strumento sociologico dalla critica europea e statunitense, il realismo magico convertì l'America Latina in un parco a tema dell'assurdo, un luogo dove accadevano le cose più insolite e terribili, senza che nessuno si scomponesse. Il regno del conformismo. Ma veniamo all'oggi. I successori della generazione del boom hanno giustamente deciso che in letteratura la loro tradizione è quella di tutto il mondo, che sono stufi di dover raccontare di banani e mangrovie e multinazionali cattive, anche se vivono nello smog e nel traffico di Buenos Aires, di Città del Messico, di Madrid o di Parigi. È una letteratura più nomade ed emigrante che mai, liberata da ogni costrizione nazionale o continentale. Questi autori, viaggiatori, cosmopoliti, che vivono in diverse città del mondo, condividono spesso lingua e passato, ma la loro creazione non è omogenea. Con qualche eccezione per gli autori di Narcovelas, non si raggruppano in movimenti o tendenze e, con gran fastidio degli accademici, non si lasciano incasellare per generazioni. La letteratura identitaria, scrive Volpi, è in via di estinzione. Restano gli scrittori e le loro opere. La tassonomia, passione critica per antonomasia, diventa impraticabile. Certo, ci sarebbe la lingua, lo spagnolo, ad accomunarli, dando vita a quella che Carlos Fuentes ha chiamato la letteratura della Mancia. Bellissima e suggestiva definizione, che tuttavia trascura i brasiliani ed è costretta a includere anche gli scrittori che scrivono in spagnolo, ma sono nati in Spagna e non nel nuovo continente. Questa definizione, inoltre, non tiene conto del fatto che più che di lingua spagnola, sarebbe più appropriato parlare di lingue spagnole, vista la grande differenza delle diverse parlate regionali. Infine, ci sarebbe il problema che alcuni di questi autori, come Daniel Alarcón o Junos Díaz, scrivono addirittura in inglese. Insomma, comunque la si rigiri, parlare oggi di letteratura latinoamericana è sempre più difficile. Se Volpi sostiene che questa letteratura non esiste più, io mi spingerei perfino ad affermare che non è mai esistita. Non era infatti in una pretesa tradizione latinoamericana che gli autori del boom affondavano esplicitamente le loro radici e la loro ispirazione, bensì in tutta la letteratura occidentale, se non in quella mondiale, come qualunque altro scrittore italiano, francese, tedesco o inglese. Insomma, basta. Finiamola con questa storia. La letteratura va dove la portano gli scrittori, i bravi scrittori. E se si è un bravo scrittore o una brava scrittrice, cosa importa, in fondo, essere nati a Lima, a Città del Guatemala, a Roma, a Londra o a Vimercate? Avete ascoltato la lettura di un articolo di Bruno Arpaia dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Premiato come miglior libro indipendente dalla giuria del MEI, The New Rockstar Philosophy nasce dall'idea di due blogger canadesi di fornire ai giovani musicisti tutti gli strumenti utili per muoversi nel music business contemporaneo. Uno scenario complesso nel quale i due autori individuano quattro modi principali con i quali un artista può guadagnare attraverso la musica. Suonare dal vivo. La musica dal vivo sarà sempre parte integrante dell'industria musicale perché permette alle persone di incontrarsi. Il pubblico continuerà a pagare per essere presente a un concerto, per partecipare a un evento. Quanto e in che modo è un altro problema. Sincronizzazione e diritti editoriali. Avete presente quando sentite una canzone in uno spot, in un videogame o in un film? Tutto questo rientra nell'ambito dei diritti editoriali o publishing e delle sincronizzazioni. Licensing. In sostanza, il publishing consiste nell'amministrazione e nella gestione del patrimonio musicale di un artista, le canzoni, e garantisce che ogni utilizzo del suddetto patrimonio sia retribuito. Il licensing è invece la pratica che permette a una vostra registrazione di essere utilizzata, dietro compenso, in programmi televisivi, film, spot, videogiochi. Entrambi questi settori rappresentano attualmente buone occasioni di guadagno per parecchi artisti. Merchandising. La vendita di merchandising può essere un'importante fonte di guadagno per un artista. Quando qualcuno indossa la vostra t-shirt, è come se dimostrasse al mondo la fedeltà alla vostra causa. Si sente parte di una tribù, della quale siete i capi. Questo potrebbe suonare enfatico, e forse lo è, ma in molti casi corrisponde alla realtà. La vostra musica rende migliore la vita di qualcuno, che porta con orgoglio una maglietta per mostrarlo al mondo. Inoltre, il ricavo sulla vendita di una t-shirt da 15 euro può essere maggiore di quello sulla vendita di un CD a 10 euro. Bisogna considerare che merchandising non significa solamente t-shirt, ma anche vestiti, pupazzi, maschere, poster e qualsiasi altra cosa vi venga in mente e che può essere venduta al vostro pubblico. Dovete solo assicurarvi che ciò che vendete sia in linea con la vostra identità. Vendita di musica. Che si tratti di CD, vinili, DVD o download digitali, la musica continua a essere venduta e comprata, anche se sempre di meno. Nessuno sa quale sarà il destino del settore, ma esistono ancora persone disposte a pagare per ascoltare musica. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Hoover e Voino, The New Rockstar Philosophy, manuale di autoaiuto per musicisti. NDA Press Editore, 160 pagine, 12 euro.